24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Alle 8, 16 minuti e 18 secondi di questo giovedì 30 aprile inizia la terza parte di 24 Mattino. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Simone Spezia e buongiorno Maria Latella, eccoci, ciao. Buongiorno, buongiorno Simone, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Siamo alla vigilia di un primo maggio. Senza retorica, è difficile, diciamo così, difficile, difficile decisamente. Maria, prima di andare alla nostra prima ospite, che sarà Alessia Morani, sottosegretaria allo sviluppo economico, ci vuoi dare un quadretto da Gran Bretagna, Germania e Francia, come sempre? E Francia, sì, comincerei dalla Francia perché Le Figaro ha una grande foto di metropolitana deserta. Anche in Francia il problema è infatti come assicurare dei trasporti sani, sicuri. La ripresa dei trasporti, la grande sfida dell'11 maggio. L'11 maggio si dovrebbero riaprire i commerci in Francia gradualmente a seconda delle varie regioni, perché anche qui ci saranno zone rosse e zone verdi, ma il problema è come garantire appunto che la gente possa andare al lavoro in sicurezza, e questo è il grande dibattito, mentre in Gran Bretagna il dibattito riguarda un po' la sfiducia che sta accompagnando una serie di iniziative che dovevano partire, di decisioni che erano state prese, per esempio la scuola, perché in Gran Bretagna ci sono stati casi di bambini che si sono ammalati di una malattia non necessariamente collegata al coronavirus, ma che ha comunque sollevato il dubbio che sia il caso di riaprire. Così ne parla il Times. Child infection, le infezioni dei bambini, come dire, ritardano o minacciano la riapertura delle scuole. Siamo in una fase 2 che comincia, come vedete, in questi due paesi. Sì. Ma era la stessa cosa anche in Germania, tra mille incertezze e una specie di stop and go. Sì. Cioè prima si va un po' avanti e poi sì, ci si ferma per paura. Oh. Che possa esserci una nuova ondata di contagio. Uno stop and go, quantomeno mediatico questo stop and go, poi vediamo se è effettivo. Alessia Morani, sottosegretaria allo sviluppo economico, buongiorno, benvenuta ai nostri microfoni, eccoci Morani. Buongiorno a voi. Allora, vuoi partire tu Maria? Vai, dai. Ma parto anche qui da una fotografia, quella delle chiavi che sono state consegnate da tanti ristoratori. Il punto è che mentre grandi aziende possono permettersi la sanificazione, di caricarsi il costo di mascherine e di tutte le garanzie necessarie per consentire ai lavoratori di tornare al lavoro in diciamo in relativa tranquillità sanitaria, i piccoli commercianti, penso anche appunto ai parrucchieri eccetera, quelli piccoli non ce la fanno. Il costo della sanificazione di un piccolo negozio di parrucchiere non so quanto possa essere sostenuto. State pensando a contributi a fondo perduto per aiutare queste attività? Ovviamente sì, però se mi permettete parto dalla descrizione, diciamo, del panorama europeo rispetto alla gestione del coronavirus. Parto da lì perché, come possiamo verificare tutti quanti, siamo di fronte ad una situazione totalmente inedita, per cui ognuno sta cercando la strategia migliore per affrontare il virus. Io credo che piuttosto che gli stop and go, poi vedremo insomma quello che succederà, è meglio dare una, diciamo, un'indicazione certa rispetto ad alcune scelte, e vengo quindi anche a quello che diceva, cioè i piccoli, soprattutto le micro e le piccolissime imprese, che sono, a differenza delle grandi imprese, più in difficoltà rispetto anche a quelle che saranno le prescrizioni e i protocolli di sicurezza per i loro lavoratori. Dicevo, in questo decreto, che oramai lo chiamo il suo aprile perché necessariamente sarà varato a maggio, ci saranno contributi a fondo perduto soprattutto per quelle microattività che più soffrono in questo momento, e riguarderanno principalmente gli affitti, il pagamento delle bollette e anche, diciamo, un piccolo contributo cosiddetto cash per riuscire a gestire questa fase di emergenza, perché poi per la ripresa ci saranno provvedimenti che spingeranno l'economia e saranno necessariamente diversi rispetto agli attuali. Tutto questo mondo, Morani, è il mondo che ieri ha consegnato appunto simbolicamente le chiavi, è il mondo che oggettivamente soffrirà di più, ristoratori, bar e poi estetisti, parrucchieri, tutta gente che riaprirà a partire dal 2 giugno, diciamo 3 giugno perché poi il 2 giugno è festa, insomma, almeno teoricamente, e se le cose andranno come speriamo che vadano. È un mondo al quale bisognerà dare un sostegno economico molto forte, credo. Sì, è un mondo a cui andranno indirizzati degli aiuti economici particolari e particolarmente robusti. Questo è certamente una delle nostre intenzioni, perché comunque sono le attività che hanno atteso per prime che purtroppo riapriranno per ultime. Anche se, come tutti i media oggi riportano, anche in Italia stiamo ragionando su aperture differenziate a seconda delle curve dei contagi, perché in queste prime 2 settimane in cui circoleranno 4 milioni e mezzo di lavoratori, poiché da questa settimana e dalla prossima sostanzialmente riaprono tutte le imprese italiane, ci servono per monitorare il contagio, per capire se la curva del contagio è gestibile e quindi cercare di capire quali sono le zone di Italia in cui si possono anche fare delle aperture differenziate, quindi anticipando magari alcune date che sono state indicate nel DPCM del Presidente del Consiglio. Per cui è molto importante in queste 2 prime settimane capire che cosa succede, proprio per riuscire a programmare anche in maniera differenziata qualche apertura che ad oggi pare lontana e che magari può essere anche... Quindi dal 18 maggio lo ritenete, mi scusi Morani, dal 18 maggio lo ritenete possibile che alcune attività come queste, ristoranti, bar, estetisti, parrucchieri, possano aprire già dal 18 maggio in alcune zone? Allora, non diamo per serietà nessuna falsa speranza, però posso dire che stiamo pensando che laddove ci sono pochissimi contagi, penso ad esempio all'Umbria piuttosto che a qualche altra regione dove effettivamente il contenimento del contagio è piuttosto importante, stiamo riflettendo su questo, però non diamo false speranze a nessuno. Maria. Se capisco bene, anche noi come la Francia ci avviamo a una sorta di zone verdi dove si tornerà più rapidamente alla normalità e zone rosse. Semplifico per capirci, visto che di questo avevo parlato prima citando le pagine delle Figaro di questa mattina. Però vorrei tornare invece alle cose di casa nostra, Alessia Morani, perché il Viminale, ed è molto preoccupante quello che la ministra Lamorgese da settimane segnala, bene, sottolinea che a marzo i reati legati all'usura sono aumentati del 9% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, e il procuratore nazionale antimafia De Rao ha detto che il rischio dell'usura mafiosa è più che mai alto, visto che l'economia, come diciamo appunto, è in grave difficoltà. Che cosa si può fare per prevenire questi rischi? Perché è chiaro che se mettiamo le piccole aziende, le medie aziende nelle mani dell'usura, della criminalità organizzata, da un lato strangoliamo tanti piccoli imprenditori onesti e dall'altro mettiamo ancora di più di quanto già non sia la nostra economia nelle mani di 'ndrangheta, camorra e mafia. Sì, in questo caso l'unica cosa che si può fare, che può essere realmente efficace, è la velocità dell'azione, cioè noi non dobbiamo permettere alla criminalità organizzata di sostituirsi all'azione dello Stato, perché di fatto mafia, 'ndrangheta, camorra si insinuano nelle maglie del nostro sistema economico solamente se lo Stato non è tempestivo nel suo intervento, per cui non dobbiamo immaginare interventi particolari se non la velocità degli interventi, quindi dobbiamo far arrivare a lavoratori e a imprese tutti quegli aiuti che in questo momento sono necessari per riuscire a sopravvivere a questo momento di emergenza. Per cui credo che facciano bene sia la ministra degli interni che il procuratore nazionale antimafia ad accendere un faro su questo problema. Dico anche un'altra cosa, che il fondo antiusura che c'è in Italia e che purtroppo è poco utilizzato, in questa fase noi abbiamo il dovere di mettere in circolazione quelle centinaia di milioni di euro che ci sono, proprio per aiutare quelle imprese che in questo momento sono avvicinate dalle organizzazioni criminali e che quindi si trovano nella loro morsa. Per cui credo vada fatto un intervento anche in questo senso, ma credo che chi di dovere insomma ci stia pensando. Ascolti Morani, avete già un'idea di quale possa essere questo stanziamento a fondo perduto, della dimensione di questo stanziamento a fondo perduto? E aggiungo, visto che arriverà con il decreto che lei ha definito fu aprile, quando lo approvate questo decreto fu aprile? Allora, il decreto dovrebbe arrivare diciamo nelle nostre intenzioni comunque in settimana. Gli interventi a fondo perduto si aggirano complessivamente tra contributi diretti, tra contributi per gli affitti e taglio degli oneri sulle bollette attorno ai 10 miliardi. Si sta pensando anche ad una compensazione di imposte come diciamo contributo per le piccole imprese, però stiamo lavorando soprattutto su qual è la platea e su qual è il modo, appunto, ritornando al discorso di prima, per far arrivare senza nessun intermediario direttamente nelle casse delle nostre aziende questi contributi. Per cui insomma, siccome si tratta, come sapete, della più grande manovra finanziaria della storia della nostra Repubblica, perché il saldo netto sarà di 155 miliardi, lo scostamento sarà di 55, ma il saldo netto alla fine sarà di 155 miliardi, credo sia opportuno anche prendersi qualche giorno in più per scrivere bene le norme, per fare in modo che insomma questi soldi arrivino a terra immediatamente senza necessità di decreti attuativi che magari possono rallentare l'azione, cercando di fare in modo che il decreto sia automatico, sostanzialmente autoapplicativo, come si dice tecnicamente. Che sarebbe una buona pratica da intraprendere anche per il futuro, però insomma questo è un altro fronte. Maria, prego. Sì, volevo andare, come dire, all'aspetto politico della situazione che si sta vivendo. Prendo spunto da un commento di Federico Geremicca sulla Stampa: caos calmo intorno al Premier. E ne leggo qualche riga. A proposito delle manovre che ogni giorno si legge sono intorno al governo e soprattutto al presidente Conte, scrive Federico Geremicca: bisognerebbe chiedersi chi sono i congiurati, tra virgolette, chi vuole davvero un governo di unità nazionale pur di liberarsi di Giuseppe Conte e quanto è disposto a rischiare. Secondo Federico Geremicca, i congiurati sarebbero i due Matteo, Salvini e Renzi, più Berlusconi. Invece Giorgia Meloni non sarebbe della partita. E poi conclude dicendo che è molto difficile che questa congiura veda la luce. In questi giorni si è parlato un po' di tensioni anche tra il Partito Democratico e Conte, sostanzialmente tra Franceschini e Conte. Quanto c'è di vero? E questa congiura, per usare sempre la terminologia di Federico Geremicca, quante possibilità avrà di realizzarsi? Qualcuno dice tanto più l'Italia andrà male, tanto più Conte rischia. Ma io ho molta invidia per chi ha tempo di pensare alle congiure in questo momento, e lo dico con molta sincerità, perché io passo le giornate cercando di ascoltare, confrontarmi con quelle categorie economiche che oggi sono più in difficoltà, cercando assieme delle soluzioni, per cui ho realmente una grande invidia perché trovo il tempo per pensare a congiure che oggi chi le evoca sostanzialmente è un irresponsabile, per come la vedo io, perché noi ci troviamo nel momento più tragico della nostra storia, perché purtroppo abbiamo questo nemico invisibile che cammina sulle persone, e pensare di cambiare governo in questo momento lo trovo del tutto irresponsabile. Poi che ci sia, diciamo, un confronto all'interno della maggioranza è anche normale, nel senso che siamo forze politiche diverse, abbiamo magari degli approcci differenti rispetto ad alcune questioni, ma questo non significa congiurare, significa che c'è una sana dialettica politica che magari aiuta a trovare anche delle soluzioni migliori. Rispetto invece all'unità nazionale, io credo che l'atteggiamento delle opposizioni non sia un atteggiamento, diciamo, che porti verso quella strada, anche non in termini di governo, ma semplicemente in termini di aiuto nei confronti di un paese che in questo momento sta soffrendo. Se pensate che questa notte la Lega ha occupato le camere, tra l'altro non riesco a capire qual è l'obiettivo dell'occupazione di quelle aule, e soprattutto con l'atteggiamento che c'è addirittura accuse di alto tradimento al Presidente del Consiglio, mozione di sfiducia nei confronti del Ministro Gualtieri, che in questo momento sta cercando di mettere insieme una manovra economica monstro, perché è veramente qualche cosa di incredibile, non mi pare di vedere all'orizzonte davvero un clima di unità nazionale, per cui penso che ognuno di noi abbia una grande responsabilità e la deve portare fino in fondo. Se poi io penso a quello che sta succedendo in Calabria, e cioè la Presidente Santelli che ha deciso che oggi riapre bar e ristoranti all'aperto, senza un protocollo di sicurezza, prendendosi una responsabilità enorme, perché se dovessero aumentare i contagi, a quel punto le responsabilità sono chiare, capite bene che se si utilizza il virus in termini politici, cioè se il virus diventa un terreno di battaglia politica, diventa davvero molto difficile per tutti gestire questa situazione. Quindi non state scaricando, il PD non sta scaricando Conte, Morani? No, non stiamo scaricando Conte. Di dirlo con abbastanza tranquillità. Senti una cosa, la questione mascherine, perché è una cosa che riguarda anche chi si occupa di attività produttive. C'è un certo numero di aziende che ha riconvertito la produzione, tra l'altro su incentivo del governo, e adesso si ritrova un prezzo fissato a 50 centesimi di euro. È una cosa che avete considerato nel momento nel quale il commissario Arcuri ha deciso di fissare questo prezzo, e avete considerato il fatto che per esempio la grande distribuzione, come il gruppo CRAI, potesse decidere di non venderle più e quindi in realtà di portare a una scarsità di mascherine? Allora, la prima cosa che abbiamo considerato è la speculazione schifosa che è stata fatta in questo periodo su alcuni prodotti di assoluta necessità, come sono le mascherine. Abbiamo trovato delle mascherine che prima della crisi venivano vendute a 20 centesimi e 5 euro. Quindi credo che l'intervento sia un intervento assolutamente doveroso per impedire speculazione ai danni dei nostri cittadini che in questo momento hanno necessità di avere dei dispositivi di protezione individuale. Rispetto alle 108 imprese incentivate, il commissario ha immediatamente preso contatti con loro, e tra l'altro sono stati anche sottoscritti contratti importanti per 660 milioni di mascherine da delle aziende italiane che sono in grado di produrle a 38 centesimi. Per quelle che si sono riconvertite, che non riescono a starci dentro, stiamo cercando di provvedere con meccanismi di compensazione, le stiamo contattando. E rispetto invece alla grande distribuzione, ci sono delle interlocuzioni con le loro organizzazioni per trovare un accordo, come è stato fatto anche con Federpharma, quindi con i rappresentanti delle associazioni dei farmacisti italiani. Maria, ci sono altre domande? No, io sono così più che a posto. Grazie Alessia Morani. Grazie. Buon primo maggio. Buona giornata. Buon primo maggio anche a voi. Sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico, deputata del Partito Democratico, una pausa e poi con Marco Bentivogli, segretario della FIMCISL, anche il sindacato è alla vigilia di questo primo maggio. A tra poco. Mattino. Allora, vediamo un attimo se riusciamo a collegarci con Marco Bentivogli, segretario della FIMCISL, se risponde al telefono di Laura Vanossi. Beh, certo, anche per lui, per la sua storia di sindacalista, questo è un primo maggio per tutti quanti, che ricorderà, perché siamo a regioni come per esempio la Toscana, cito un articolo sul Manifesto di questa mattina, Toscana che è una regione in cui il tema della disoccupazione era avvertito in maniera meno grave che altre regioni del centro-sud Italia. Invece in Toscana, ci dice il Manifesto, sono fermi il 41% dei lavoratori e c'è un record della cassa integrazione. A terra il turismo, il commercio, la ristorazione, calo fino al 50%. E stiamo parlando di una regione che appunto prima del coronavirus viveva una condizione molto meno difficile di altre. È un primo maggio sicuramente particolare. Il vostro all'800 24 00 24, un primo maggio appunto di difficoltà in attesa di questo 4 maggio che dovrebbe segnare appunto una riapertura parziale. con tutte le difficoltà che conosciamo e che sappiamo, col fatto che alcune cose non riapriranno, riapriranno solamente il 2 giugno, qualche ascoltatore ci scrive giustamente, e le palestre e le discoteche, anche là, amici miei, purtroppo sarà presumibilmente dal 2 giugno o dal 3 giugno, o vedremo come andranno le cose, se ci saranno delle possibilità, come avete sentito e ce l'ha appena detto la sottosegretaria allo sviluppo economico Alessia Morani, ci sarà la possibilità forse in alcune zone del paese di riaprire, forse già dal 18 maggio, è comunque qualcosa che stanno valutando. Vedremo che cosa succederà. Allora, salutiamo intanto Giancarlo Leone, che è presidente dell'Associazione Produttori Audiovisivi. È un altro settore, ovviamente, che ha vissuto e sta vivendo tutte le sue difficoltà e sta ragionando su come rilanciarsi. Leone, buongiorno e benvenuto. Eccoci. Buongiorno a voi e buongiorno ai vostri ascoltatori. Maria, prego. Buongiorno Giancarlo Leone. Allora, in queste settimane di reclusione, La TV ci ha fatto molta compagnia, ci siamo svagati e distratti un po' con tante serie televisive. Però ora io mi chiedo, e mi è capitato di parlarne anche con qualche attore, come faranno a ripartire le serie televisive? Che fine farà tutta la gran parte delle persone? Il settore occupa 100.000 persone che oggi sono ferme. Come si fa a girare su un set con due attori che devono stare vicini? Mica si possono tenere la mascherina. È vero, non è assolutamente facile. Diciamo che è stata fatta una roadmap da parte dei produttori che prevede sostanzialmente la ripresa delle produzioni di intrattenimento fin da subito, cioè già dalla settimana prossima. Per quanto riguarda invece le serie televisive e il cinema, la roadmap prevede la partenza sui set entro la fine del mese di giugno, al massimo i primi di luglio. La cosa, come diceva, non è semplice. È stato fatto un protocollo sanitario per quanto riguarda tutte le situazioni, fino al front set, cioè fino a dove stanno gli attori. Il vero problema è l'interazione tra gli attori, soprattutto quando questa è ravvicinata. Allora, per semplificare, diciamo che se, come noi auspichiamo, entro fine giugno vi saranno dei test affidabili e questi test saranno disponibili, questo consentirà anche la messa in sicurezza degli attori. E questo sul fronte degli attori. C'è però tutto un altro fronte, Leone, che è il fronte dei lavoratori del settore. Lavoratori del settore che spesso non hanno gli stessi ammortizzatori sociali degli altri e rischiano di trovarsi in una difficoltà finché non si fa un protocollo, finché non riparte tutto e bisogna vedere con che velocità ripartirà, insomma, e che rischiano di trovarsi in grande difficoltà. È vero, il problema è enorme e riguarda, come ricordavate prima, decine di migliaia di lavoratori. Lo ricordiamo, mi scusi, operatori di camera, i fonici, i truccatori, anche i parrucchieri, tutto quello che potete immaginare, tutto l'indotto, il catering, tutto quello che potete immaginare che ruota intorno a una produzione audiovisiva. Prego Leone, mi scusi. Assolutamente, sono loro, sono i lavoratori che poi sono il motore ovviamente di questa industria, così come sono i fornitori ovviamente. Qui diciamo tra gli occupati diretti, quindi indiretti, il numero è molto consistente, è gravissimo. Molti di loro sono in cassa integrazione, altri in NASPI, sono situazioni gravi. Ecco perché è fondamentale ripartire subito. Secondo i protocolli sia del Comitato Colao, sia del governo, le produzioni televisive e cinematografiche sono considerate a basso rischio. E questo è fondamentale, nel senso che è certificato che che queste attività possono riprendere prima di tutte quante le altre, al punto tale che, come ricordavo, l'intrattenimento ha già ripreso di fatto e riprenderà. Il vero tema, della ripresa delle produzioni audiovisive è scenografiche, avendo dei costi molto elevati. Io ricordo che in Italia il costo, della serialità, gli investimenti ruotano intorno ai 380 milioni di euro, 250 milioni di euro sono i costi del cinema, 300 milioni di euro l'intrattenimento e 50 milioni di euro documentari e animazione. Allora i costi sono elevati. Un film può costare mediamente dai 2 ai 5 milioni di euro. Una serie televisiva che consta magari di 8 episodi può costare fino a 10-12 milioni di euro. Allora è chiaro che ripartire con una produzione, con il rischio che poi si crei un effetto Covid durante le riprese, che costringa una produzione ad interrompersi e poi riprendere con dei danni, dei costi maggiorati, impone quella necessaria prudenza che, pur essendo a basso rischio, non consente a ora di dire che si riprenderà la produzione della serialità, ma l'auspicio è quello di farlo a fine giugno. Senta Giancarlo Leone, nell'immediato futuro e anche in quello prossimo, è possibile che si torni a girare in Italia? Perché negli ultimi anni, anche negli ultimi 10 anni, si andava a girare sia per le produzioni televisive che non dovessero essere fatte in studio, che per quelle cinematografiche si andava a girare all'estero perché costava meno la manodopera. E oggi, con i rischi di viaggio e i rischi legati appunto a trasferire tutte le troupe all'estero, è possibile che si torni a lavorare in Italia con vantaggi per la manodopera italiana, ma anche con costi più alti, perché il costo del lavoro in Italia è più alto che nell'est Europa, per esempio? Sì, ma guardi, le dirò, in verità questo problema è stato già in buona parte risolto, perché l'accesso al tax credit, cioè al credito d'imposta per i produttori di cinema e di audiovisivo, impone una serie di regole, tra le quali quella di girare in Italia. Quindi diciamo che già da alcuni anni a questa parte quel fenomeno di riduzione dei costi che derivava magari dal girare in alcuni paesi dell'est è stato sostanzialmente annullato. Semmai io vedo un altro tipo di problema, nel senso che l'Italia è diventata estremamente attrattiva negli ultimi anni, sempre grazie al tax credit gestito dal Ministero dei Beni Culturali. È stato un luogo dove sono venuti e stanno venendo i produttori da tutto il mondo per girare, utilizzando proprio le produzioni esecutive italiane e quindi i lavoratori italiani. Ecco, questo fenomeno ovviamente ora si è interrotto. Era un fenomeno decisamente virtuoso, grandi produzioni internazionali che venivano in Italia. Sì, doveva venire anche Tom Cruise, no? A sì, girare, insomma, in Italia. Diciamo che, in verità diciamo che era venuto già, era a Venezia insieme al cast di Mission Impossible, e dopodiché ovviamente la produzione si è interrotta. Allora il problema è semmai un altro: come continuare a essere attrattivi come prima e più di prima per i produttori internazionali nel momento in cui, temo, per almeno un anno sarà difficile che dall'America, dall'Inghilterra, da altri paesi vengano in un paese straniero a girare. Credo che questa situazione del Covid imporrà e costringerà sostanzialmente la maggior parte dei produttori, ognuno di loro, a girare sostanzialmente nei loro paesi. Detto questo, il fenomeno di andare a girare all'estero è stato in gran parte congiurato grazie proprio al tax credit. Ascolti Leone, prima di chiudere, prima di salutarla, ci dica un po', lei che ha sott'occhio il settore, i riflettori puntati sul settore ce l'ha, ci dobbiamo aspettare un'invasione di prodotti dedicati a Covid? Mi dia un'idea, no, perché... Guardi, no, capisco quello che dice, certamente gli umori delle storie future non potranno, soprattutto se sono storie contemporanee, non potranno richiamare al loro interno la più grave crisi, diciamo, dal dopoguerra in poi. Quindi così come c'è stato, chiamiamolo, il neorealismo italiano nel dopoguerra, non dico che si arriverà a questo, ma dico anche che le storie contemporanee non potranno non raccontare, se non il Covid, una serie di scie, di code e di problematiche che derivano proprio, diciamo, da questa grande crisi. Quindi qualsiasi storia potrebbe essere permeata di qualcosa, nel modo giusto però, ovviamente. Quindi non saranno storie dedicate alla medicina, alla scienza, soltanto ai temi, diciamo, di questa pandemia, ma la storia della contemporaneità, perfino Un posto al sole, quando riprenderà a Napoli, non potrà non raccontare qualcosa qualche passaggio di quello che è stato e di quello che è, quindi sicuramente i racconti. Ecco, con le conferenze stampa di De Luca. Senta Giancarlo Leone, prima di salutarci, sì, una domanda, sì, secca, da grande appassionata di cinema: quando è, sì, secondo lei, che potremo tornare nelle sale cinematografiche? Ecco, questa era la domanda che speravo di non avere, non solo perché, sì, ovviamente esistono anche altre associazioni come quelle che gestiscono direttamente, diciamo, gli esercenti, ma da sicuramente appassionato e produttore anche di cinema posso dire questo: temo, ed è un timore, che entro fine anno sarà difficile il ritorno nelle sale. Credo che lo Stato, il governo, i produttori, le associazioni faranno tutto quello che possono fare per anticipare questa data in sicurezza, quindi con tutte le modalità, ma diciamo che al momento non c'è ancora visibilità, quindi per essere pessimisti direi non prima di fine anno, per essere ottimisti mi auguro dall'autunno, ovviamente si vedrà. Quello che è importante è che, se non altro invece in termini di spettacolo televisivo, la stagione delle repliche, o come può succedere adesso con l'Eredità, con tanti programmi che rivediamo in replica con la scritta "questa data è stata girata prima del Covid", usciremo presto anche da questo e torneremo a godere anche in televisione dei programmi di nuovo freschi, originali, e diciamo girati appositamente. E questo anche a tutela dei lavoratori. Grazie Giancarlo Leone, presidente dell'Associazione Produttori Audiovisivi. Buona giornata. E proprio ai lavoratori e a questo primo maggio andiamo con Marco Bentivogli, segretario della FIM CISL. Bentivogli, bentornato ai nostri microfoni. Eccoci qua. Salve. Buongiorno a tutti. Un primo maggio che, insomma, che nessuno di noi si aspettava di vivere così, direi. No, assolutamente, questo accanto alla tragedia dal punto di vista di perdite di vita umane sarà un grande problema anche per il lavoro. I luoghi di lavoro sono stati ovviamente anche essi sedi di grandi problematiche e però in quest'ultima fase anche di una grande capacità di reazione a livello aziendale, realizzando questi protocolli di sicurezza che mi sento di dire in queste ultime due settimane hanno visto anche nella gestione dell'azienda un cambio di passo assolutamente positivo e che auspicavamo da tempo. Volevo chiederle, Bentivogli, voi siete in contatto con i vostri omologhi, colleghi del sindacato in Germania, in Francia, perché per parlare per esempio del settore automobilistico, in Germania c'è molta preoccupazione perché se le aziende dell'indotto italiano si fermano, si ferma anche l'economia tedesca. Quindi la mia curiosità è: siccome da più parti si dice che da questa crisi, almeno per quanto riguarda Schengen, l'Europa, o si esce tutti insieme con delle strategie europee o non se ne esce, vale per il turismo tanto per cominciare, ma nel sindacato esiste uno scambio? Che cosa ci può dire di come si sta muovendo il sindacato in Europa, almeno nei paesi che ho citato prima, la Germania, la Francia? Sì, noi pensiamo che nel 2020 il nostro modo di fare sindacato è un sindacato che sicuramente si internazionalizza. Sulla Germania però bisogna un po' fare un'operazione verità rispetto alle cose che sono state dette in queste settimane. Volkswagen ha aperto lunedì, non questo, quello precedente, in realtà l'automotive italiano idem, e questa idea che le fabbriche italiane, io mi occupo di metalmeccanici, sono tutte ferme, è un'idea che non c'entra nulla con la realtà. Il primo periodo hanno lavorato, la fase 1 cosiddetta, hanno lavorato solo le aziende con produzioni e filiere cosiddette essenziali o strategiche, ma con le autorizzazioni ai prefetti e poi la semplice comunicazione ai prefetti, il 75% delle imprese è già al lavoro da più di una settimana, per cui questo sicuramente serve un'integrazione, una strategia europea sulle scelte, ma credo che il nostro paese sia un po' complicato a chiedere una roba del genere quando non è in grado di integrare una scelta a livello nazionale, per cui di avere un liberi tutti costante sulle proprie politiche e le scelte che bisogna fare nel contrasto della pandemia. Allora, da questo punto di vista, il problema è che il settore dell'auto, oltre alla pandemia, era già investito da una tempesta. L'anno scorso l'automotive in Italia si è chiusa con meno 10%. La previsione che fanno i nostri colleghi tedeschi è che su 800.000 addetti diretti delle aziende, 400.000 rischiano di perdere il posto di lavoro. Queste erano analisi precedenti alla pandemia. Per cui questa, la pandemia, a mio avviso, è un grande acceleratore di queste transizioni, e anche a livello europeo bisogna sì puntare a centrare gli obiettivi ambientali, ma bisogna centrarli senza essere autolesionisti sui propri settori industriali. Questo invece continua a essere l'Europa il luogo dove si fissano traguardi sempre più stringenti senza verificare come ci si arriva. Come esiste la possibilità di preservare occupazione, industria e tutela ambientale tutto insieme, ecco, queste tre variabili sono tutte quante da considerare. Spesso invece si prendono dei provvedimenti che sono assolutamente autolesionisti. Un riferimento è alla presunta correlazione tra le PM10 e le PM2.5, cioè le polveri sottili e le morti per cancro nella pianura padana. Nella gran parte dei casi, cioè, esiste non è solo ascrivibile ai trasporti, sì, questo tipo di però per la politica, proprio per questo consenso di breve, la prima cosa che si attacca sono i trasporti e le automobili. Su gomma, naturalmente le automobili. Bentivogli, su questa fase 2 che inizia appunto il 4 maggio, tra molte discussioni, molto dibattito, lei ci diceva le aziende negli ultimi 20 giorni insomma hanno reagito bene, stanno iniziando a reagire bene in termini di prescrizioni, evidentemente di come vengono organizzate all'interno, le sanificazioni e via dicendo. Dall'altra parte si parte questo lunedì con molte incertezze, posto che tutta una serie di aziende erano già aperte, come già lei ci diceva, per carità, con tutta una serie di incertezze sono correlate ovviamente al trasporto dei lavoratori, cioè come arrivano in fabbrica, come arrivano al lavoro, sono correlate alla questione dei figli, con chi li lascio, cosa faccio se dobbiamo andare tutti e due al lavoro, insomma, su questo fronte cosa ci dice, cosa nota? Queste sono preoccupazioni vere. Allora, la prima, io penso che a metà maggio avremo una nuova fotografia dell'economia reale del paese, in cui ci sono aziende che stanno riprendendo discretamente, ma ci sono aziende a cui gli è sparito tutto il mercato di riferimento o buona parte. Queste aziende hanno difficoltà non solo ad accedere alla liquidità promessa dal governo, hanno difficoltà proprio a riprendere non solo la produzione, ma ritrovare i soggetti di prima a cui vendere. In questo periodo, vede, c'è stato il mercato non è stato fermo, cioè il lockdown non ha bloccato la scelta delle imprese in tutto il mondo di cambiare spesso forniture, e per cui questo, accanto a un calo di domanda globale che ci sarà su alcuni prodotti, è chiaro che questo rappresenterà un problema. Il secondo riguarda la conciliazione della vita col lavoro, che è chiaro a scuole chiuse sarà un problema molto serio. Un primo intervento sicuramente con il prolungamento dei congedi, ma noi si è riunito il nostro coordinamento donne dei metalmeccanici proprio qualche giorno fa e diceva: noi, ci sono molte ragazze che appunto hanno figli piccoli e ci dicono che saranno costrette a lasciare il lavoro. Questa è una cosa, è veramente una resa del nostro paese, cioè dopo tutto quello che si è fatto per le lotte di emancipazione delle donne, alla vigilia della festa delle lavoratrici e dei lavoratori, che ancora nel 2020 si debba lasciare il lavoro per poter proseguire la cura dei propri figli è un fatto assolutamente inaccettabile. Anche perché appunto i figli non sono attribuibili alla cura solo della madre, no? Dovrebbero essere figli condivisi. Poi ci sono tante madri lavoratrici che sono poi single. Proprio su questo le chiedo, in altri paesi si è scelto di riaprire gli asili nido proprio perché i più piccoli non possono essere lasciati da soli. Complicato far venire una babysitter, trovarla, fidarsi di una babysitter, e quindi si è preferito aprire gli asili nido e le scuole materne perché i bambini piccoli si contagiano meno e poi ci sono insegnanti più giovani. Come sindacato non potete fare pressione perché questo succeda anche in Italia? Ci sono regioni, segnalo il Veneto, che sta scegliendo questa strada. Lei che ne pensa? Ma io mi occupo di metalmeccanici, il sindacato scuola sta lavorando bene su questo fronte, però a quel che mi dicono il comitato tecnico scientifico nelle varie 100 simulazioni che ha fatto alla riapertura delle scuole tutte provocano un incremento dei contagi. Io quando ovviamente parla un comitato tecnico scientifico sto in silenzio e ascolto, non mi sento di fare il tarro della situazione, per cui mi inchino, ascolto e così è. Segnalo solo che nei casi migliori questi bambini andranno dai nonni e dalle nonne, nei casi migliori, perché spesso non si hanno genitori lì pronti disponibili. E poi i nonni vanno protetti. E nei casi peggiori invece le madri saranno costrette a lasciare il lavoro. Dicevo nei casi migliori, che però significa anche riesporre gli anziani a questo pericolo di contagio che è assolutamente assurdo. Certo. Sui trasporti c'è un altro problema molto grande. Noi l'abbiamo Bentivogli segnalato. Purtroppo però dobbiamo chiudere, siamo veramente in chiusura anche se insomma mi sembra che l'argomento l'abbiamo toccato. Grazie Marco Bentivogli, segretario della FIM CISL, le auguro una buona giornata. Maria, ci sentiamo lunedì, che domani non siamo in onda. Grazie. Buon primo maggio a tutti, alla buon nostra primo squadra maggio. Per soprattutto a chi lavora, ce ne sono tanti. Buon primo maggio alla Task Force di 24 Mattino. Ci sentiamo lunedì, ciao.